Tempo di Sport di Gigi Garanzini. È stata dunque la Juventus la prima a divorziare, adesso toccherà al Milan e poi quasi certamente a Ibrahimovic. Ma andiamo per ordine. Oggi in teoria sarebbe il giorno dell'appuntamento con il calcio internazionale. Dalla teoria passiamo alla pratica, tant'è vero che è qui presente in carne e ossa niente meno che il ministro degli esteri Fabio Tavelli. Buongiorno Fabio. Quale onore, buongiorno Gigi, un saluto a tutti. Facciamo così, oggi ti assegno a interim anche il dicastero degli interni. Bene. E ci facciamo compagnia affrontando oltre al calcio estero anche, direi soprattutto con precedenza, quello di casa nostra, che d'altra parte tu segui ogni giorno su Sky Sport. Sì. 24. Come si è evoluta ieri sera, appunto dal tardo pomeriggio in poi, la notizia dell'esonero di Ranieri, del subentro di Ferrara e tutti i commenti che ne sono seguiti? Ma la sera prima, Gigi, abbiamo avuto qualche segnale, però era più un segnale per quanto riguarda il ritiro, cioè che la Juventus stava seriamente pensando di portare la squadra in ritiro in Toscana per la partita di Siena. Si parlava di mercoledì, giovedì, così. Quindi la notizia dell'esonero l'abbiamo cominciata. Il tam-tam è cominciato la mattina successiva, cioè quella di ieri, nelle quali da Torino arrivavano segnali e il nostro ricognitore a Torino è Federico Ferri, che è solitamente molto ben informato. Ma molto ben informato fu lui, se ricordate, ad annunciare di fatto le dimissioni di Deschamps nell'anno della certo. Serie B. Vero. E niente, insomma, ha cominciato a prendere forma al punto che la notizia praticamente l'abbiamo annunciata prima del comunicato ufficiale della Juventus, insomma. Ed è nata da un incontro notturno tra Secco, Coballigigli, Blanc con Ferrara al telefono, che ha avuto poi bisogno comunque di contattare la federazione per avere queste due settimane di libertà e poi ovviamente ci abbiamo costruito tutta la serata. Allora, queste due settimane di libertà della Nazionale, subito mi aggancio per un commento di Mario Sconcerti oggi sul Corriere della Sera, che scrive come ultima considerazione, poi ve ne leggerò delle altre. Ultima cosa, Ferrara è persona di grandi meriti, ma è anche il vice di Lippi in Nazionale. Si rafforza il legame che è stato alla base di questo pasticcio di fine stagione, il rapporto fra il CT e la Juve. Forse si poteva evitare di sottolinearlo. La federazione ne sa qualcosa e perché accetta un'eccezione così clamorosa? Io la trovo una domanda perfettamente legittima. Continuo a pensare che, nonostante Lippi si sia prodigato in questi ultimi giorni in dichiarazioni di presa di distanze, non solo, ma abbia pubblicamente annunciato che non farà mai più parte di un club, insomma non è mai più un club, eccetera, io continuo a pensare che il suo rapporto con la Nazionale, prendi, lascia, eccetera, sia quello un po' del... che sia con un piede a terra, detta in maniera molto semplice. Sì, la cosa curiosa, Gigi, è che il logorio che ha colpito Ranieri non vorremmo che poi colpisse Lippi. Cioè il logorio di Ranieri è iniziato paradossalmente il giorno in cui è stato scoperto quel pranzo tra Jean-Claude Blanc e Marcello Lippi in Liguria. Quella è stata certamente la data che ha dato l'inizio al logorio più forte nei confronti di Ranieri. Ecco, il fatto di indicarlo così tanto come il prossimo direttore tecnico della Juventus, sapendo che il Mondiale 2010, nella peggiore delle ipotesi, comunque per l'Italia finirà dalla metà di giugno in poi, e, insomma, potrebbe essere un macigno pesante, insomma, nel senso che la figura di Marcello Lippi è una figura inattaccabile evidentemente per quello che ha fatto alla guida della Nazionale. L'accostamento così forte, magari troppo forte, soprattutto se la scelta della Juventus fosse di confermare Ferrara o di prendere Antonio Conte, cioè due persone comunque non lontanissime da Marcello Lippi e che potrebbero essere riconducibili a lui, ecco che potrebbe a questo punto il logoramento andare paradossalmente su Marcello Lippi. Salto di palla in frasca, ma fino a un certo punto. Una mail arrivata stamane, Gianluca Pagano, è firmata: noi da italiani siamo costretti a pagare un canone Rai. Allora io mi chiedo, ma se devo pagare un canone, posso almeno scegliere chi avere sotto contratto per commentare le partite che guardo? Perché non posso stipendiare con i miei quattrini che verso per il canone persone come Fabio Tavelli? Io sono d'accordo. Nicola Roggero e non Bagno Variale. Mi sono anche risposto, continua questo ascoltatore, Sky sicuramente non li lascia andar via. E poi seguono altri complimenti per te. Questo mi si collega a un riferimento che hai fatto prima, e cioè al fatto che Federico Ferri da Torino ha cambiato un po', Sky Rai ha cambiato un po' i rapporti di forza, secondo me, che sono questi. Federico Ferri come emblema, come caso più tipico, nel senso che il giornalismo televisivo, soprattutto quello Rai, è sempre consistito in Italia per non dare le notizie, e cioè per andare a rimorchio dei giornali. Mi sembra che con Sky, e in particolare con questo ragazzo, si sia un po' invertita la tendenza, o comunque ci sia anche da parte di chi lavora in TV, penso a Lanciato, penso ad altri, sì, che sì, sono da voi, la ricerca della notizia, cosa che alla Rai non è proprio mai appartenuta come cultura. Ma io naturalmente non tolti gli imbarazzi. No, tolti gli imbarazzi. Io credo, ma l'ha detto anche Mario Sconcerti da noi ieri sera, che è veramente cambiato tutto. Cioè, nel momento in cui la Juventus caccia un allenatore due giornate dalla fine, è proprio il segnale che è cambiato tutto. Ed è cambiato tutto anche nella comunicazione, perché la forza mediatica di uno o più canali, perché poi in realtà ce ne sono pure altri, che quotidianamente dedicano energie, risorse, impegno alla ricerca della notizia, e che magari a volte trovano la notizia e a volte no, perché io capisco anche i dirigenti, capisco anche Galliani, capisco Cobolli Gigli, capisco Moratti, che sono costantemente inseguiti e costretti a dover ripetere tutti i giorni: Moratti, Ibrahimovic rimane, Galliani dice Ancelotti sarà il nostro allenatore. E continuamente tutti i giorni vengono braccati da gruppi di cronisti con microfono. Io credo che anche per loro sia diventato più difficile, quindi è tutto vero quello che dici. Quello che diceva ieri Mario Sconcerti era che la Juventus non aveva avuto finora in passato una piazza né reale né virtuale che premeva su di lei, perché comunque tu sai bene che a Torino la Juventus ha sempre potuto godere di una grande tranquillità, e non aveva nemmeno una piazza mediatica che le stava addosso. E negli ultimi anni invece questo è cambiato, perché è proprio cambiato il modo di fare comunicazione, e lo è anche in virtù delle nuove tecnologie e dei nuovi modi di comunicare. Certo, lo ha detto da voi a Sky Sport 24, lo ha scritto poi su Corriere della Sera. Ho citato prima un brano, adesso cito quest'altro, sempre di Mario Sconcerti, che trovo molto interessante in effetti, e questa è la novità. Per la prima volta la Juventus ha subito la piazza, ha secondato il suo popolo. Credo per inciso sia un successo di internet, scrive Sconcerti. Non è mai esistito un popolo della Juve tanto era sterminato, non ha mai avuto un centro perché era dovunque. La rete ha prima costruito, poi organizzato questo popolo. È un po' sospetto semmai che sia diventato così aspro e puntuale solo adesso, come se davvero qualcuno lo spingesse da dietro, e questa direi che non è male. Poi c'è un altro passo duro che condivido al 150%. Cacciare Ranieri è un colpo durissimo alla coerenza della dirigenza, eccetera eccetera. Bisogna essere coscienti che sotto questo aspetto si è scritta una pagina storica, ma nessuno ha nemmeno aiutato la società a non sbagliare. È stato singolare, abbastanza impudico, il silenzio di Del Piero. Un grande capitano, il fondamento della squadra e della memoria, non può scomparire dietro le sue esclusioni. Ha un mandato dalla gente, ha il dovere di spiegare cosa sta succedendo, di prendersi una responsabilità. Del Piero è rimasto nel mezzo, e da quella posizione ha automaticamente autorizzato la incorsa della gente alla testa di Ranieri. È durissimo. Sì, ma, sì. È durissimo ma vero. Nel senso che il silenzio di Del Piero non è un silenzio casuale, ed è evidentemente ha scelto la via del silenzio, che è un silenzio che viene abbastanza facilmente interpretato come un assenso alla mossa della società. Abbiamo parlato a lungo, tra un po' parleranno gli ascoltatori evidentemente, poi cambieremo capitolo come promesso. Adesso cominciamo a sentire qualche voce che arriva da Torino. La prima è quella di Ferrara, che si trova comunque catapultato in una situazione non facile. Sentiamolo. Mi sembra scontato, forse anche banale, dire che in questo momento c'è necessità comunque dei nostri tifosi, così come sempre. Ma questo è un momento difficile, delicato. Abbiamo un obiettivo, noi come squadra, la società e anche i tifosi stessi. Un unico obiettivo da conseguire tutti quanti insieme è la qualificazione diretta alla Champions, e quindi dobbiamo lavorare tutti insieme per quello. Io mi sento orgoglioso in questo momento, magari per due giornate, non lo so, magari per due giornate, ma mi sento orgoglioso di essere il nuovo allenatore della Juventus. Poi il futuro si vedrà. Poche chiacchiere, dice Ferrara in buona sostanza in un altro frammento che ascoltiamo adesso. No, non credo di dover stare molto tempo a parlare con i ragazzi. Cercherò di usare le parole giuste, i toni giusti, e poi andare immediatamente in campo a lavorare con intensità, con la giusta serenità, ma di sicuro con molta molta intensità durante gli allenamenti. La gara non è nient'altro che la risultanza di ciò che fai durante la settimana. Infine un terzo frammento, così completiamo questo autoritratto, direi, di presentazione di Ferrara al pubblico italiano nella veste di allenatore, certo, perché Ferrara tutto sarà meno che uno sconosciuto. Ferrara che si proietta sul futuro. Non so cosa accadrà, cosa sarà del mio futuro, però mantengo quelli che sono gli impegni presi. Quando ho parlato con Jean-Claude e con Alessio, ho assolutamente detto di sentirsi tranquilli in quella che sarà la loro scelta sul prossimo allenatore della Juventus, che possa essere Ferrara, che possa essere qualsiasi altro allenatore. Se dovesse esserci un'altra scelta da parte della società, io tornerò a fare il responsabile del settore giovanile, tornerò a collaborare con la nazionale in vista della preparazione per i mondiali. Cannavaro, capitolo Cannavaro, perché Ciro Ferrara è un napoletano storico ed è in sella da ieri alla guida tecnica della Juventus. Ce n'è un altro che è in arrivo, anzi in ritorno, che è Cannavaro. Sono felice di essere tornato alla Juventus, ha detto stamane. Mi spiace che in una parte della tifoseria prevanga il rancore sull'apprezzamento per le stagioni gloriose che abbiamo vissuto insieme. Sono però convinto di poter convincere anche i più scettici attraverso il lavoro, la professionalità e la passione con cui affronterò la nuova avventura. Cannavaro è stato fischiato anche ieri nella partita del cuore a Torino. Sì, forse meno di quello che ci si potesse aspettare. Però sì, qualcuno continua a non gradire, probabilmente vede le partite del Real Madrid. Io credo, nel senso che più che per il passato, per come lui è andato via, e molti naturalmente non sono stati contenti di questo, forse anche il fatto che con una coppia centrale come Chiellini e le Grottaglie, pensare di dover lasciare spazio a questo Cannavaro, forse qualche tifoso giustamente è perplesso. Certo. Questo mi fa venire in mente un tema che mi stuzzica da un po' di tempo e che non vorrei a sua volta creasse imbarazzi. Introduciamo anche questo, poi cominciamo a interloquire con gli ascoltatori e affrontiamo altri argomenti, che è questo. Il fatto di vedere calcio globale ormai su Sky, calcio di qualità più alta, e cioè il calcio spagnolo, il calcio inglese, eccetera, eccetera, non sta deprezzando indirettamente, anzi direttamente, il prodotto calcio Italia. È una considerazione che faccio su di me, nel senso che più vedo calcio spagnolo e calcio britannico, più faccio fatica a vedere una partita. C'è una differenza forte, Gigi, tra te e quasi il resto del mondo, che è quella parola che tu hai appena detto. Cioè il calcio italiano vive e sopravvive, e ci auguriamo tutti che possa prosperare in futuro, anche perché ha questa lente deformante ma indispensabile, che è il tifo, che è la faziosità, che è la passione, che è la voglia comunque di vincere a prescindere, no? Senza se, senza ma. Chi guarda anche calcio internazionale può essere tifoso. Io ho molti amici che sono tifosi, anche colleghi che sono molto tifosi di squadre straniere, anzi alcuni proprio solo tifosi di squadre straniere. Diciamo che io credo, Gigi, una cosa, onestamente, che il tifoso possa fare a meno del calcio internazionale, ma non della propria squadra del cuore. Il calcio internazionale è un momento di ricreazione nel quale magari si riconcilia, sì, con il calcio in generale, ma che poi chi è veramente tifoso non possa fare a meno di soffrire o di gioire per la propria squadra del cuore. Toglietemi tutto, ma non l'Inter, la Juventus, il Milan, la Roma e quant'altro, il Napoli. Per il tifoso, sto parlando del tifoso. Per il tifoso certamente sì. È vero, scrive Giovanni da Brescia, che la Juve non esonerava un allenatore da 30 anni, ma è anche vero che non era mai successo che la Juve non vincesse da 7 turni. Non è vero che non è mai successo, però... Erano 40, tra l'altro, che era il 69. Esatto, intanto erano 40 gli anni, appunto, dell'esonero. Poi in teoria, in realtà potrebbero essere anche 10, speriamo brevemente, perché la Juve aveva già avuto una serie così negativa, l'ultima risaliva all'82-83. Questo non toglie che sia una serie estremamente negativa, che integrava qualunque provvedimento. A due giornate dalla fine sono robe da Zamparini, o da Ghirardi, presidente del Parma. Vabbè, Ghirardi fece anche peggio. Ghirardi esonerò Cooper all'ultima giornata. Fece allenare la squadra a Manzo. Guarda, lo scorso anno è successo, sì, esattamente, e per questo non è record della Juve. perché sì, il record rimane al Parma con Ghirardi lo scorso anno, che a questo punto non è battibile, perché finché non arriva l'esonero a metà tema, a metà partita, certo, credo che potrebbero anche risparmiare. Non credo vivremo così così a lungo, Gigi. Guarda, peggio di Ghirardi in realtà ho fatto soltanto io, perché stamattina sul Sole ho scritto, e anche sul blog, ricordando male, ho scritto che aveva ingaggiato Cooper per l'ultima giornata, no, invece no, era esattamente il contrario, ha preso Cooper al posto di Di Carlo, che era l'unica soluzione per salvarsi il Parma l'anno scorso, come è noto. Sì. Qui, quando poi, grazie a Cooper e a questa, è riuscito a all'ultima giornata, mi pare Manzo, no? Prese Manzo, l'allenatore della primavera, e quindi Ghirardi quest'anno ha iniziato subito con Cagni e l'ha esonerato quasi subito, però con Guidolin l'ha portato il Parma in Serie A. Ed è la terza promozione su tre tentativi dalla B alla A di Guidolin, 3 su 3, non è una brutta percentuale. I primi interventi di oggi, Augusto Forlì, buongiorno. Signor Garanzini, buongiorno a lei e al suo ospite. Sì. Volevo dire una cosa, tornando su Balotelli, non le sembra che si stia un po' esagerando col fatto di sgridarlo sempre, adesso addirittura a sgridarlo anche dopo che ha segnato? Anche perché poi Ibra non è che fosse così sicuro di segnare avendo il difensore vicino. Non vorrei che poi a sgridarlo sempre di continuo per qualsiasi cosa possa anche infierire sul suo modo di giocare, cioè non lasciarlo libero a volte di fare quello che vuole. Sono cosa ne con lei. Pensa lei? Sono d'accordo con lei in questo caso. Mi sembra, Balotelli mi sembra avviato verso la direzione di Pierino. Pierino, in quella famosa storiella in cui se si agitava molto lo mettevano in castigo, se stava troppo calmo gli provavano la febbre. E mi sembra un po' così, però fa parte Balotelli in quella circostanza, mi pare, vittima incolpevole, o comunque protagonista incolpevole di questa recita che Ibrahimovic ormai sta mettendo in piedi da un mese passa, che mi sembra oggettivamente non più sostenibile. Poi vi leggerò magari qualche frammento, qualche vostra mail, qualche passo interessante, e in ogni caso vi darei appuntamento sin d'ora a domani, perché andiamo per capitoli. Oggi c'è il capitolo Juve oltre a quello internazionale, domani ci facciamo una puntatina su Ibrahimovic, e magari discutiamo insieme, voi scrivete la vostra opinione, cominciate pure da oggi e poi domani le sentiamo anche in onda in diretta, per vedere qual è il polso dell'ascoltatore sulla destinazione di Balotelli, cioè se è meglio di Ibrahimovic, insisto, se è meglio tenere uno a forza che evidentemente non ha più questa gran voglia di restare, o se è meglio invece lasciarlo al suo destino professionale d'altra parte, perché non mi sembra che sia il caso di parlare di tradimento. Allora vediamo di rilanciarlo poi ancora oggi, ma in ogni caso questo diventa l'argomento di domani. Gora, chiamato da Novara, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Io volevo parlare del caso Ranieri, no? Sì. Che trovo molto ingiusto la fine e l'esonero per un semplice fatto, perché io credo che lui ha tirato fuori il meglio, il massimo della Juve fin quando ha retto a livello fisico. E per me sto dicendo questa cosa qua, perché la Juve fin quando ha retto con la difesa alta ha sempre giocato bene, ha dato fastidio all'Inter. Da quando non ce l'ha più fatta fisicamente ha cominciato a cadere. Poi soprattutto la Juve ha avuto un grosso problema. Se facciamo caso, da quando manca Sissoko e Amaury nel momento migliore della Juve, e lì che la Juve ha avuto una flessione. E quindi io penso che qualsiasi squadra. Questo è vero quello che lei dice, Gora, però no, non dimentichiamo un paio di cose. La prima è che anche l'Inter a un certo punto della stagione, e un punto chiave, ha perso uno che si chiama Maicon, che era il vero playmaker della squadra. Comunque, insieme al portiere Ibrahimovic, il giocatore di maggior rendimento e di maggior inventiva. Ho dimenticato Cambiasso, ma insomma comunque un pezzo da 90. L'altra cosa è che se una squadra crolla atleticamente nel finale, beh, questo fa parte della responsabilità dell'allenatore comunque. Poi l'allenatore è il suo staff, ma è lui in ogni caso il capo dello staff. Si dimentica anche Cristiano Zanetti come giocatore. Bravissimo. Importante. E io credo che la Juventus fosse, prima dell'inizio del campionato, la terza squadra come forze, e che in questo momento sia la terza squadra in classifica. Quindi penso anche che Ranieri, voglio dire, gli hanno imputato molte cose, gli hanno imputato forse anche una delle cose in cui non si è quasi mai parlato, ma la Juventus ha dato molto fastidio non arrivare in finale Coppa Italia. questo è stato un obiettivo che per la Juventus era molto importante e non si può incolpare certamente Ranieri dell'eliminazione dalla Champions League. Credo che quello che lui stava ottenendo fosse in linea con la squadra che gli era stata data. Sì, sì, certo. Anche se un crollo finale così per una Juventus è indubbio, sì, che, sì, certamente. È indubbio che legittimasse del panico. Poi da lì alla decisione. Guarda, Gigi, mancano due giornate a Siena e in casa con la Lazio, sì, una Juventus men che normale fa 6 punti. Men che normale si sarebbe comportata in maniera diversa, no, in prospettiva, anziché certamente cambiare l'allenatore. Però, insomma, pensare che questa squadra non possa far 6 punti in queste due partite significa veramente che sì, il tonfo è pesante. Sì, fermo restando che poi magari anche 4 possono bastare, insomma, sì, questo dipende anche dagli altri. C'è un confronto diretto tra Fiorentina e Milan, quindi. Sì, sì, Enzo, provincia di Milano, buongiorno. Sì, buongiorno a lei e a Fabio Tavelli. Prima di introdurre l'argomento voglio fare una piccola divagazione. Se Tavelli preferisce rimanere a Sky e non andare in Rai, perché in Rai non c'è Tania Zamparo. Poi per quanto riguarda la Juve, l'espressione di Tavelli che ho sotto controllo diretto non avvalora, secondo me, era una battuta comunque. Perfetto. No, poi sempre riguardo la Juve, il buon Tavelli anche qui mi ha anticipato, perché secondo me l'errore che è stato fatto dalla dirigenza juventina, dalla società, è stato all'inizio campionato fare grandi proclami, considerando che aveva una squadra non superiore a Roma, Inter, Milan e forse anche la Fiorentina, perché se vediamo non ci possiamo neanche appellare agli infortuni, perché il Milan ha giocato senza centrali difensivi per tutto il campionato, la Roma è stata falcidiata da un sacco di infortuni, anche l'Inter ha avuto il suo bel guaio con Maicon, per cui secondo me sono state create delle illusioni che non si dovevano, anche perché già il terzo posto conquistato l'anno scorso è stato un grossissimo traguardo, impensabile secondo me a inizio campionato. L'unico rammarico è la finale mancata di Coppa Italia, considerando che appunto già Roma, Fiorentina, Inter e Milan erano state sminate, e per quanto riguarda la Champions League, certo, lì sono d'accordo con lei, sta diventando un po' lunga Enzo, mi scusi, ma ci sono molti ascoltatori che premono, lì sono d'accordo con lei, quello è stato anche un errore di Ranieri, perché in quel momento della stagione si gioca al massimo e si mettono in campo, non si fa nessun turnover nella partita in casa con la Lazio e si va in finale, poi si discute sul campionato. Perché almeno un obiettivo di consolazione, certo, non è che il popolo juventino impazzisca per una Coppa Italia, però in tempi di magra non, Gigi avrebbe impedito quella osannazione e celebrazione dello zero titoli per tutti, sì, gli altri, certo. E pensa cosa ci saremmo persi. Certo, e quindi sì, questo è anche vero. Facciamo in tempo ad ascoltare ancora Gianfranco da Trento, buongiorno. Pronto? Dica Gianfranco. Ah, buongiorno, sono un vecchio juventino. Sì. Io dovrei dire due cose. Tanto Agnelli si rigirerà nella tomba. Secondo luogo, eliminare un allenatore a 2 giornate dalla fine in quelle condizioni lo potevano fare ancora 1 mese fa, 2 mesi fa, quando era già contestato. In terzo luogo vorrei dire che se arrivassero quarti, no? Sarebbe una giusta punizione per quello che hanno fatto ultimamente, perché gli attaccanti hanno fatto il loro dovere e i difensori dormivano o facevano finta di dormire, quindi l'allenatore avrà una colpa relativa anche lui, avrà sbagliato molte volte ma i giocatori non lo so. Ecco, io la penso così, ascolto per radio, grazie. Grazie a lei Gianfranco. Non facciamo in tempo a mandare, credo, prima dell'intervallo il servizio sul Giro d'Italia, lo teniamo per la seconda parte della trasmissione, non so, forse una mail, ce ne sono tante, c'è l'imbarazzo della scelta. Facciamo questo: Gianluca Veronesi da Milano, che ha avuto una visione, no, una sensazione, dice: sono convinto che sarà Rijkaard a succedere ad Ancelotti, in primo luogo perché Berlusconi ha sempre preso ad esempio il suo Barcellona per quanto riguardava il possesso palle e la spettacolarità, il secondo è perché lui fu capace di sfruttare al massimo le potenzialità di Ronaldinho. Sì, certo, quando Ronaldinho era diverso, era un altro Ronaldinho. Ronaldinho indubbiamente allontano dall'essere quello che fu, è l'unico che mi abbia ricordato Rivera. Caro Gianluca, andrei pianino su questo, vorrei tanto tornare a rivederlo a certi livelli, Ronaldinho e non Rivera. Credo sarebbe una vittoria per tutto il calcio, magari le faccio fare uno scoop. No. è un derby Van Basten-Rijkaard, quindi non è uno scoop. No, non è uno scoop. Tornando a Ronaldinho, credo che insomma sia abbastanza curioso come la prima parte della stagione. Nella prima parte della stagione tutti noi abbiamo detto e ripetuto come invece la scommessa a Ronaldinho sembrava vincente, sembrava addirittura vinta, cioè sembrava già incassata. E invece poi no. La sensazione è che Ronaldinho abbia ancora delle cartucce da sparare, ma ha un patto, e ha un patto vero, e cioè che riacquisti una dimensione fisica, una condizione complessiva che evidentemente non ha più, ha perso da troppo tempo. Quando sento fare certi paragoni con Rivera, credo che queste persone non l'abbiano mai visto giocare. Io ho avuto la fortuna di vederlo anche in maglia grigia, scrive Claudio da Milano. Beh, insomma, se l'ha visto in maglia grigia, gli anni sono più o meno i miei. E allora le do una notizia, Claudio. Il prossimo 26 giugno ad Alessandria ci sarà una grande celebrazione dei 50 anni di Rivera nel calcio, proprio dal debutto in un Alessandria Inter del giugno del 1959. Quindi se lo annoti, poi seguiranno particolari. La sigla del Giro. Voci dal Giro. E il collegamento con Piero Augusto Stagi. Sarà la tappa della memoria e della storia, che però è priva di storia, perché in realtà si chiama Cuneo Pinerolo, ma all'interno gli ingredienti sono notevolmente diversi. La Cuneo Pinerolo del 49, vinta da Fausto Coppi, è quella dei Cinque Colli: Maddalena, Vars, Isoar, Monginevro e Sestriere. Bene, oggi i corridori affronteranno solo il Sestriere sostanzialmente. Poi c'è il Moncenisio, a 11 km dal traguardo ci sarà Pramartino, ma è tutt'altra cosa, è tutt'altra storia. Io credo che oggi debba assolutamente muoversi la Liquigas e il suo capitano designato Ivan Basso, perché è quello meno favorito rispetto ai diretti avversari come Leipheimer, come Menchov, come Carlos Sastre, come lo stesso Thomas Lundqvist, che avranno dalla loro la cronometro delle Cinque Terre. Quindi loro hanno la chance di una cronometro piuttosto adatte ai loro mezzi, e Ivan deve assolutamente con la sua squadra rendere una tappa difficile, difficilissima. La correranno a grandissima velocità e soprattutto gli uomini di classifica cercheranno di darsi quei colpi di pedale che restino poi nei muscoli alla vigilia della cronometro delle Cinque Terre. Però con la storia francamente non ha nulla a che vedere, c'è solo un ritrovo di partenza e un ritrovo d'arrivo. Mi sembra quanto mai pertinente questo commento di Piero Augusto Stagi. Non so se dobbiamo far ripartire la sigletta. Sì. Voci dal Giro, in collaborazione con... Il cambiamento è nell'aria. Ford dà più valore agli incentivi statali. Oggi puoi avere Transit Van Turbo Diesel Common Rail a 10.500 euro. Quanto mai pertinente, perché è vero che non ci sono più i grandi campioni una volta, ma non ci sono neanche più i grandi organizzatori una volta. Vincenzo Toriani era un altro film rispetto agli attuali, con tutto rispetto. Non si può battezzare Cuneo Pinerolo una tappa che ha scritto il mito del ciclismo italiano e ripresentarla con un solo colle, quando Maddalena, Vars e Isoar erano sepolti dalla neve sin da febbraio, ma sepolti sotto 7-8 metri di neve. Non c'era nessuna possibilità di transitare per la Valle Stura e scendere dall'altra parte, lo dico con cognizione di causa geografica, sicché c'era tutto il tempo per sostituire la Cuneo Pinerolo con una tappa che avesse una valenza tecnica e che non fosse soltanto un simulacro vuoto. Tutto questo d'altra parte sparisce di fronte al dramma di stamane, perché il Giro è stato funestato da una tragedia della strada. Fabio Saccani, 69 anni, originario di Carpi, è morto sulla moto con la quale stava raggiungendo il retro di partenza della Cuneo Pinerolo, per l'appunto. Gli ha tagliato la strada un camion, secondo una prima ricostruzione. Saccani, al Giro del Centenario, accompagnava un fotoreporter, Bettini, e aveva seguito 32 volte, per 32 edizioni, il Giro d'Italia e per 11 il Tour de France. Domani, a Torino, prima del via della undicesima tappa, verrà osservato un minuto di silenzio. Ci sono altri ascoltatori in linea, allora io darei spazio a questi due amici e poi aprirei con Fabio Tavelli una volta per tutte il capitolo del calcio internazionale, che è secondo me di particolare interesse sta settimana. Non è di primissimo piano, ma è di particolare interesse. Sandro da Roma, buongiorno. Buongiorno, grazie. Lorenzini. Dica. Allora, tengo per la Juve, sì, ma non sono tifoso, soprattutto dopo la descrizione che ha dato Tavelli poco fa, perché molto spesso rinuncio a vederla perché preferisco vedere le partite di altri campionati, anche per una questione di riprese, di distanza dal campo, per tutta una questione, non è soltanto il calcio giocato, è anche proprio la bellezza dello spettacolo, vedere la gente così vicina al campo fa un bel effetto, le donne, i bambini vicini, insomma, tutto questo rende gradevole, rende un momento veramente speciale. No, pensavo ai tifosi della Juve che non riescono ad abituarsi all'idea della sofferenza. Io sarei stato entusiasta di andare in finale di Coppa Italia, altro che accontentarsi. Io ero contento, cioè certo, è un momento difficile, ma se la Juve non riprende a soffrire, se non si recupera quella sofferenza, io ricordo molto bene, io sono diventato juventino alla fine degli anni 60 e non era una Juve facile, insomma, no? E la sofferenza c'è stata prima che arrivassero Picchi, Allodi e poi Boniperti, insomma, e questo è quello che i juventini, come se non avessero senso storico, un po', se mi permette questa digressione politica, un po' per la questione della multietnicità, no? Gli italiani si sono dimenticati da dove vengono, chi sono. Ecco, la stessa cosa è gli juventini, la Juve è stata una squadra che ha sofferto molto, ecco, tutto qua. Sì, io ne conosco di quelle che hanno sofferto di più, però un fondo c'è anche questo. Alla parola sofferenza sostituirei la parola normalità, che segue anche i grandi cicli vittoriosi, così come segue quelli grandi negativi, no? Ti faccio un esempio che viene dal basket americano, mi sono molto piaciute le parole di questo ascoltatore che saluto. Quando abbiamo iniziato a seguire il basket americano in Italia, grazie alle telecronache di Dan Peterson, erano due, anzi tre le grandi squadre, i Boston Celtics e i Philadelphia 76ers da una parte e i Los Angeles Lakers dall'altra. Vincevano quasi sempre loro. E poi abbiamo cominciato a scoprire Chicago, abbiamo cominciato a scoprire Detroit, abbiamo cominciato a scoprire che Boston nemmeno andava ai playoff. Per i Lakers è diverso, sono sempre andati ai playoff e hanno anche ricominciato a vincere. Ma i tifosi dei Celtics, che sono stati campioni l'anno scorso, hanno dovuto aspettare tantissimo tempo per tornare a vincere. E nessuno di loro si è mai sognato di non andare al palazzo, oppure di dimenticarsi di fare il tifo o di cacciare l'allenatore due giornate dalla fine, proprio perché la mentalità italiana, soprattutto di chi si abitua a vincere, non prevede il ritorno alla normalità. I tifosi del Milan che contestano la dirigenza sono certamente nel giusto quando fanno un'osservazione su: mi hai comprato Senderos, mi hai preso Shevchenko, mi hai preso Ronaldinho, avevamo bisogno di un'altra cosa, ma non possono dimenticare che negli ultimi 20 anni hanno vinto come nessuno. Ma certo, quindi questione anche di memoria. Qui aumentano sul display gli ascoltatori anziché diminuire in vista del calcio internazionale. Roberto da Bologna, dica. Buongiorno Garanzini. Buongiorno. Io volevo fare un commento sull'esonero di Ranieri. Sì. Io sono tifoso juventino. Sì. E io sono molto d'accordo con l'esonero di Ranieri, perché in tutta la stagione ha avuto molta confusione. Prima di tutto, molte partite le ha concluse senza fare tutti i cambi, o faceva due cambi e un cambio solo. E poi c'è stata la sbagliatissima gestione di Giovinco, che anche adesso è sparito, che forse era il ragazzo che faceva veramente più comodo. Quindi da qua vengono fuori dei problemi proprio di spogliatoio, di gestione, che è da inizio stagione, e in più il mercato della stagione scorsa, che un po' lui, un po' molto la dirigenza, questo Paulsen, Knezevic, tutti i mezzi giocatori che non so se vuoi fare una grande squadra alla fine cosa sono, non li conoscevamo neanche a momenti. Certo. Quindi molte colpe a Ranieri noi tifosi le diamo anche per questi motivi qua, e forse per non riuscire a tenere a freno un po' la vecchia guardia come sì. Del Piero, quella gente lì. La ringrazio, Garanzini. Grazie a lei. Vediamo se facciamo un intervallo ultimo e poi vediamo se ci riusciamo a parlare un po' di Wolfsburg e dintorni. Il ripasso di storia, Nicola Filippone. Sembra ieri. 19 maggio 1993. Sconfiggendo per 3-0 il Borussia Dortmund a Torino, dopo averlo battuto due settimane prima a domicilio per 3-1, la Juventus di Trapattoni, Roberto Baggio e Vialli conquista la Coppa UEFA. Al Delle Alpi è Dino Baggio a trascinare i bianconeri con una doppietta, con il contributo di Meller, autore del terzo gol. La Coppa UEFA del 93, unico trofeo ottenuto da Trapattoni durante la sua seconda gestione, è anche la terza che finisce nella bacheca della Juve dopo quelle ottenute nel 77, all'inizio del primo ciclo del Trap, e nel 90 con Zoff in panchina. La Juventus è tuttora primatista di successi in UEFA insieme a Inter e Liverpool. 19 maggio 93, facciamo un piccolo rimpasto di quelle quattro cifre. 93, arriviamo al 1939, bene, 19 maggio è nato Livio Berruti a Torino. Quindi compie oggi 70 anni uno dei miti, ma dei miti veri della storia dello sport italiano e dell'atletica in particolare. E credo nessuno che l'abbia vissuta o che l'abbia sentita, insomma, raccontare anche da piccolo dimenticherà mai quella volata sulla pista dell'Olimpico nel settembre del 60, quando vinse la medaglia d'oro dei 200 metri. Con le colombe che volavano. Con le colombe che volavano, che baciavano la sua corsia. Livio Berruti, beh, questa leggenda vera. 70 anni oggi, tanti cari auguri e un abbraccio a un grande atleta storico per il nostro sport. Fabio, Germania e Francia direi in particolare. Sì. Ma Germania soprattutto perché proprio quando il Wolfsburg sembrava, non dico in caduta, ma insomma sembrava dover mollare, invece ha reimpennato ed è in testa, e soprattutto una squadra che aveva licenziato un allenatore a quante dalla fine? A tre? Quattro, a proposito di licenziamenti tardivi, e cioè il Bayern. Mi sa che non ha funzionato sto gran. No, non ce la farà, perché il Bayern ha pareggiato con l'Hoffenheim settimana scorsa e tra l'altro stava pure perdendo. Vinceva 1-0 col gol di Ribéry, ma poi perdeva 2-1, ha pareggiato Toni. Non ce la farà perché il Wolfsburg ha 2 punti di vantaggio a una giornata dalla fine, giocherà in casa contro il Werder Brema che gioca la finale di UEFA domani, il Werder Brema che è già in vacanza da un bel po' di tempo per quanto riguarda il campionato. Si gioca all'Allianz Arena Bayern di Monaco contro Stoccarda, e sono tutte e due le squadre staccate di 2 punti rispetto al Wolfsburg. In corsa teorica, non più per il primo posto, ci sarebbe anche l'Hertha di Berlino che ha 1 punto in meno del Bayern e dello Stoccarda, e quindi serve 1 punto perché la differenza reti del Wolfsburg è straordinariamente vantaggiosa per la squadra di Magath, e quindi direi che il titolo, il Meisterschale quest'anno il Wolfsburg lo può solo regalare. Cioè, se il Wolfsburg non vincesse il titolo, credo che sarebbe una cosa oltre il 5 maggio dell'Inter, perché il Wolfsburg gioca in casa davvero con una squadra. Senti, parliamo di questa coppia d'attacco del Wolfsburg, di questo Dzeko e Grafitsch. Non sbaglio, sono a 51 gol, 52 in due. Cosa pazzesca. Cioè, la coppia... Una cosa pazzesca, e si compensano alla perfezione. Ne hanno segnato Caterve soprattutto nella parte finale. A me piace tantissimo Grafitsch, che ha una velocità, ha una leggerezza di tocco. Dzeko è più potente. Insomma, sono quei giocatori che ogni tanto ti puoi scoprire soltanto cercando sui vari canali calcio internazionale, perché altrimenti non sono giocatori che entusiasmano la fantasia dei tifosi, quindi non li leggerai, non credo, sui titoli dei giornali a caccia di con società italiane a caccia di nomi da dare in pasto alla piazza. Certo. Insomma, non sono giocatori che eccitino particolarmente in questi campionati, fanno veramente dei danni alle difese avversarie. Senti, la Francia invece registra questa impennata nel Bordeaux, ma soprattutto la caduta del Marsiglia con Lione. Col ritorno del Lione, il Lione rischiava di non farla nemmeno il preliminare Champions League, poi anche il rallentamento del Paris Saint-Germain. In Francia l'annuncio del cambio di panchina per l'anno prossimo, sia di Gerez al Marsiglia che di Le Guen al Paris Saint-Germain, non ha dato buoni frutti, infatti sono calate tutte e due nel finale. Credo che il Bordeaux meriti di vincere il titolo, lo vincerà, perché comunque lo ritengo più forte del Marsiglia, e comunque, insomma, chi si troverà il Lione nel preliminare farà la sua bella fatica in agosto. Sicuro. A differenza, questo cambio di panchina annunciato, mica annunciato, avvenuto, certo, annunciato per l'anno prossimo. Gerez ha già detto che lascia, e Deschamps ha già detto che sarà lui, anzi è stato in Marsiglia a comunicare che sarà. Al contrario, quindi ha avuto un effetto nefasto, a differenza che in Germania, dove Felix Magath ha annunciato 2 settimane fa: io vado a allenare lo Schalke 04. Era in testa col Wolfsburg, la partita dopo l'ha persa e sembrava nefasta anche lì, e invece ha ripreso il controllo della situazione in pieno. Nemmeno la piega. Ma questo, sai, questo si presta a mille considerazioni. Una forse può essere che andrebbe anche un po' ridimensionata, o dimensionata meglio, la portata e il peso degli allenatori in certe situazioni. Certo. un ascoltatore ricorda, non a caso, dice: è bello che tutti se la prenda con Ranieri per l'acquisto di Paulsen, ammesso che l'abbia comprato lui, e nessuno però ricordi che la società non ha potuto comprare Stankovic perché i tifosi non l'ha voluto. Non è male, Stankovic avrebbe fatto molto comodo alla Juventus, però paga Ranieri, non gli imbecilli che non hanno voluto Stankovic, che hanno fatto, e non l'avrebbe avuto l'Inter, tra l'altro. Fantastico. Io credo che avremo la possibilità di esibirci nei prossimi giorni in prospettiva Champions, perché ormai mancano... Ormai ci siamo. Mancano 8 giorni. Sicché, dato che ci sono 2 amici che sono in linea, so da parecchio tempo, diamo spazio a loro in conclusione. Antonio da Milano, buongiorno. Buongiorno. Una domanda a voi, velocissima, sì. Una domanda / considerazione. Non crede che il calcio abbia perso un'altra occasione, l'ennesima? Si mandano via persone vere come Donadoni e Ranieri, educate sportivamente e civilmente, e secondo me si entra sempre più in un baratro culturale pericoloso. Grazie, ascolto per radio. La risposta è sì. La risposta è sì, poi magari baratro... Sì, baratro eccessivo, magari... baratro eccessivo. Però io credo che al di là di questo, ti rubo 5 secondi per dire, mi piacerebbe vedere negli ultimi 180 minuti la partita di ieri sera tra Portsmouth e Sunderland nel campionato italiano. Ecco, io credo che se riuscissimo a vedere nelle ultime giornate qualche partita vera in più, soprattutto per quanto riguarda la lotta per la salvezza, non c'entra tanto col discorso del nostro ascoltatore, ma è un discorso un po' più ampio. Credo che il calcio ne gioverebbe, insomma. Purtroppo le brave persone spesso sono le prime ad essere sacrificate. No, ma in questo è ampiamente condivisibile l'intervento dell'ascoltatore. Io ci aggiungerei un carico da 11, perché comunque dietro a ciascuno di questi due esoneri c'è la figura di Marcello Lippi, comunque poi diretta, indiretta, sì. Presente, in essere, immateriale, mettiamola come vogliamo, però c'è questa, e questo rende ancora più sgradevole per il mio l'accaduto sull'un fronte e sull'altro. Giuseppe, Roma, buondì. Garanzini, e buongiorno al suo ospite. Io, ahimè per lei, torno a parlare di Juve, sono un tifoso juventino. Mi riallaccio a quello che diceva un ascoltatore in precedenza sul fatto che la Juve ha tenuto fisicamente fino a un certo punto, poi quando ha ceduto ha preso i gol. Ma la mia domanda è questa: ma un allenatore a cosa serve se non ad adeguare il modulo a quello che è la farina in quel momento che ha, anche a questo deve servire. Giuseppe, l'abbiamo detto prima, questa è una responsabilità precisa di Ranieri, attenuata da tutti gli infortuni che sono accaduti e che gli hanno impedito in parte di intervenire. Posso dirti, Gigi, come può Ferrara far correre una squadra che non corre più in 180 minuti? Assolutamente sì. Ferrara o chiunque. Ripeta la data per Rivera, scrive Claudio da Milano, che ringrazio in anticipo. La data per Rivera è una festa per Gianni Rivera ad Alessandria il 26 giugno, ma ci sarà tempo, mentre l'anniversario esatto del suo debutto in Serie A è il 2 giugno 59, Alessandria Inter 1-1. Siamo arrivati alla conclusione. Io credo che questa rimpatriata, da quanto manchi da qua? Ma io da sempre, perché io qua non sono mai stato, sì, fisicamente. Bene, ma quando ci hai abbandonato i Pescara? Il primo marzo del 2004. 2004, quindi sono 5 anni. Sono 5 anni, dopo, sì. 5 anni abbondanti, finalmente. Però era l'altra una sede, rimpatriata in studio, anche se quella era la sede. Con grande piacere. Grazie Fabio Tavelli. Allora, grazie a Valeria Bernardi in regia, Flavio Suardi in redazione. Appuntamento a domani con sullo sfondo i malumori e i mal di pancia di Ibrahimovic.